Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Presentato oggi il nuovo rapporto dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, che ha valutato indicatori di performance dei servizi sanitari regionali. A Obiettivo Salute il professor Walter Ricciardi, direttore dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane e ordinario di igiene generale applicata all'Università Cattolica. Professor Ricciardi, buongiorno. Buongiorno. L'epidemia Covid-19 ha fatto emergere la fragilità del decentramento in sanità. È un messaggio chiaro che arriva dal rapporto, che evidenzia che l'uguaglianza dei cittadini e la capacità di fronteggiare le emergenze è a rischio. Professor Ricciardi. È a rischio perché di fatto noi veniamo da 10 anni di sottofinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale in tutte le regioni italiane, però in alcune, quelle commissariate, il sottofinanziamento è arrivato praticamente al blocco dei servizi, al blocco del turnover, quindi non c'è più personale, e questo si è evidenziato in tutta la sua drammaticità nello tsunami del coronavirus, in cui la parte migliore del paese, cioè la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto, dal punto di vista delle performance, è stata annichilita da questa pressione incredibile. Fortunatamente solo il lockdown, cioè solo la chiusura, ha evitato che questo impatto arrivasse anche sulle regioni. Però la reazione al coronavirus, che è stata fortissima, non è sufficiente per ripristinare una condizione minimale di sufficienza per l'assistenza, perché adesso ci sono tutte le prestazioni per le patologie oncologiche, per le patologie cardiovascolari, insomma per le patologie non Covid, che hanno una lista d'attesa pazzesca proprio perché non ci sono adeguate strutture per smaltirle. Tante le differenze nella gestione dei contagiati tra le regioni. Professor Ricciardi, vuole scattarci una fotografia della situazione? Che cosa emerge dai dati di Osservasalute? Ma emerge per esempio la differenza nell'approccio diagnostico. Ci sono regioni che cercano poco e trovano poco, regioni che cercano molto e trovano poco, regioni che cercano poco e trovano molto. Insomma, si stabiliscono proprio dei gradienti incredibilmente differenti l'una dall'altra per quanto riguarda l'approccio ai cosiddetti tamponi, ma anche per quanto riguarda poi la modalità con cui vengono gestiti questi pazienti. C'è una grande eterogeneità, insomma, quello che non ci dovrebbe essere, perché il nostro territorio è nazionale, però purtroppo la sanità, purtroppo per quanto riguarda queste differenze, in negativo e regionale. Che cosa si aspetta per il futuro, professor Ricciardi? Mi faccia una previsione. Ma guardi, noi, lei lo sa, sono 20 anni che monitoriamo queste differenze, che in tempo di pace, tra virgolette, generano disuguaglianze, ma in tempo di guerra, come quella al coronavirus, generano morti e feriti, cioè generano sostanzialmente una differenza abissale nella capacità di risposta. E io credo che questo debba essere modificato, però non la vedo facile, perché la Costituzione ancora affida alle regioni questa responsabilità, e ci vorrebbe uno sforzo, come posso dire, di buona volontà da parte di tutti. Vabbè, vediamo quali sono però i meccanismi per cercare soprattutto di aiutare quelle regioni e quindi quei cittadini che sono più in difficoltà. Grazie professor Ricciardi per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie altrettanto. Bene, per oggi è tutto, come ogni giorno vi invito sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute per i nostri incontri a tu per tu. Oggi ospite il professor Antonio Russo, neurologo, responsabile del centro cefalea all'Università della Campania Luigi Vanvitelli. Col professor Russo analizziamo il nostro mal di testa per capire che cosa ci dice di noi e del nostro stile di vita. Vi aspetto, non mancate, una buona giornata da Nicoletta.